non fanno onore alla propria vita, la pisciano via, la cagano fuori, muti idioti. Troppo presi a scopare film, soldi, famiglia, scopare film, soldi, famiglia, fottere tua madre. Ciao a tutti, noi siamo gli Asino, veniamo da Massa Carrara, siamo cover band di Deep Purple e baci a tutti. Sulla luna, ma in fondo mi basterebbe essere felice. Non so se avete mai sentito parlare di lui e della sua carriera, della sua lista. Facciamo una meno Tina Turner. No. Ok. Di Riccardo, fino all'altro ieri eravamo in due, ora abbiamo Riccardo al T-Rex. Se puoi alzare il basso, ispira a tutti. Il basso di Riccardo Manetta, grazie. No. Grazie. Sono pronti. Soundcheck degli Asino. One, two, three, four! I cadere stanchi come per le spalle al muro con un fucile che ti guarda sorridendo. Forse ti prenderò, forse passerò un'altra volta. Questo lo si sa, l'importante è cadere e avere la forza per rialzarsi. Dio cane! dopo tre giorni mi alzo scalzo e lascio il sepolcro vuoto, e poi a qualche discepolo e a qualche apostolo. Apostolo, ma... granchietto, tutti in laterale così, con le manine, andiamo su e andiamo giù, poi allunghiamo le manine, giriamo le manine e ci mandiamo tutti a fanculo. We'll be right back. Ma la mia nonna bigotta del quartiere maledice tutti all'infuori del Signore. Eppure bestemmia, eh? Quanto bestemmia. E come bestemmia. Questo testo parlava della mia nonna, che bestemmia un sacco, fondamentalmente perché... perché ha venduto l'anima al diavolo! Al diavolo! Al diavolo, amore mio! Al diavolo! Al diavolo! Al diavolo! Al diavolo, per amore! Al diavolo! Al diavolo! Voglia bene che sia! Voglia bene! O il diavolo! sì, questo è il penultimo pezzo. Cioè, ne mancano questo e un altro. Grazie allo ZK, grazie a tutti, non li sto a elencare. È stato bello, veniamo da lontano, siamo qui da ieri. Il tempo è stato la nostra, diciamo così. È bello, grazie. È penultimo, dai. Dai, cazzo. Dai, porco Dio. Non sei mai stato così tenero. Sei stato molto tenero. Vai, proprio. Chiamare, nessuno sa il suo vero nome, pelle nera, che più nera non si può. Anello accettato al dito per scacciare via le maledizioni, mi dice che funziona. Savi, savi, savi, savi, savi, savi, savi, savi. Questa sera l'ho accompagnato a casa, sulla mia panna scassata, in un'abitazione crollante, senza luce, nel quartiere più decadente della città. Ma lui era contentissimo e rideva. Savi, savi, savi, savi, savi, savi. Un asino, quindi è un tirannosauro molto molto molto basso, arriva ai malleoli e ha queste orecchie favolose con la boccuccia proprio. Ora non si vede un cazzo, ma so di essere talmente bello che vado. Chi ha visto ha visto, chi non ha visto non ha visto. Ultimo pezzo, vi vogliamo bene tutti, dopo tutto ci vogliamo bene. Grazie a tutti. Se volete farci ricchi, là c'è il dischetto, in fondo. Questo pezzo è l'attacco, il momento dell'attacco dell'asinosauro rispetto a qualsiasi cosa che si muove e non si muove. Lui si arrabbia sempre molto. Quindi più o meno parte così. Io mangio uomini di buona volontà. Mangio uomini di buona volontà. Io mangio uomini. Io mangio uomini di buona. Mamina va bene, bene, na bebena.